linea, devo scendere al ghiero. Ok, avanti Luca. Beia, ciao Massimiliano, alla prossima. Avanti Tonino, riprendi. Ciao Massimiliano, poco detti, ci sentiamo alle prossime. E poi io non mi diverto a mettere a portante con 5 watt. Adesso mi sono mille, sì, la magazza vostra. No, ma non è Tonino, non è il tuo segnale. È più basso, era più basso qua il segnale, Luca. Non è questo. Già ne ha messo portanti Tonino, anzi dai Tori, ti faccio compagnia, già ne abbiamo messo portanti, dai ragazzini, però adesso no, è completamente diverso il segnale qua, dai. Oh, attenzione, non sto condannando nessuno, ho detto solo che il segnale è come quello di Tonino, non ho giocato, non seguite anche Tonino. Ho detto quando la mettevamo la portata la mettevamo. No, sto guardando il segnale, dai, ragazzi. A me mi arrivava leggermente più basso, questo è un po' più alto pulettino, poi Tonino lineare no, non ne uso, ma vabbè. Ok raga, io sono andato per salutarvi di nuovo, ciao Toni, complimenti per quella radio, com'è che si chiama? Radio, già te lo dico. Aio. Non lo so, buio, dai, c'è che è cancellata. Ah, cosa cancellata, che l'ho vista, ti ho sentito ieri notte provandola con Antonello, sono andato a guardarla su internet, peccato è favolosa, è bellissima quella radio. Lo so, piace anche a me. Sono rinato. Ehi, allora sei rinato, quando c'è una radio buona è così. Ciao Massimiliano, buona cena, buon tutto ragazzi. Comunque dimmi come si chiama, perché non me lo ricordo, io sono andato a vederla poi ieri, ma non me la metto più, perché la volevo mandare a Gianni, e invece non me la ricordo più, capito? Vabbè dai, un abbraccio a tutti, buon proseguo di serata, io vado a pappare, ciao. Ciao Claudio, ciao anche a Massimiliano, buon tutto e buona carica. Claudio, dimmi. Guarda, ti ho inviato uno schema, non so se vada bene per quel microfono. Sì, Luca. Chi è che sta chiamando? Già è lui, là. Quella portante che c'era prima, là. Quel messaggio che mi hai mandato, già è lui, là. Non c'è problema. KK, là. Dai, ci sentiamo nei prossimi, là. Comunque è lui, tranquillo, Luca via. Dai, che lo voglio sapere. Ciao Claudio, buon pomeriggio, ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Massimiliano, comunque sono rientrato. Ciao Tonino. Ehi, dimmi una cosa, me lo sto guardando bene quella radio che stavo parlando ieri, che la fa uguale alla Roadster, è una radio, io la conoscevo come Roadster, però di un altro colore. Quel panopolone centrale, a cosa serve? Che c'è una specie di ferituia, che ci vede qualcosa? Ma veramente non lo so, perché è sempre nella busta e lo sto ritornando alla persona. Ma sta vedendo questa persona? Non ho capito. Ma sta vedendo questa persona? A quanto pare mi era appena chiamato, poco fa, che ho ricevuto la mappa e è già venduto. Si può sapere quanto? Non me l'ha detto. Guarda, rinunci a Pomponi, c'è tutto. Io devo portare la luce a mano. Ma di che era? Di Antonello con la radio? No. E di che è? Ma non so se vuole dirlo tu. Di che? Non lo so se vuole dire, chiama Antonello, te lo fai dire. Ah, ok, no, pensavo. Se addirittura pensavo fosse la tua. No. Era mia, però poi c'è stato un piccolo disguido e cosa, a me non veniva più di tanto, niente, sto tornando indietro, sto a posto. E sto poi un'altra cosa. E adesso cosa stai uscendo invece? Con Saturnetto? No, adesso ce l'ho col Polmar. Ah, ok. Però tu stavi cercando un Saturnetto, così? No, che l'ho avuto mezza giornata. Ok, vediamo un pochettino. Riccardino lo facciamo entrare. Però io dico di quella portante, per concludere il discorso, secondo me Luca era in movimento, perché non è possibile. Da 9.5 poi arriva a 9.20 abbondante, di colpo. E schiacciava Massimiliano. Era in macchina? Era in macchina, secondo me. Beh, se da massa arriva più o meno deve essere qui, già dove siete voi, se buona portante arrivano a fare scala. No, non era vicino a casa mia, però copriva, prima non aveva fastidio a nessuno perché eravate tutti più forti, tu non c'eri, però con lì tu arrivi molto più forte, tutti forse poteva dar fastidio, ma non è detto a Porto Torres, perché questo era 9.5, se era a Porto Torres è più o meno quello, 9.5 di Eugenio, ma di radio è forte Eugenio, non credo che lo passi. Poi di colpo è arrivato 9.20 abbondante, dava fastidio a Massimiliano. Ecco, avrà qualche po' di wifi sotto, senz'altro. Roberto. Dimmi. Ma cambia molto il segnale dal Colt a adesso che sono con lo Stalker? Sì, 5 punti perdi, da 9, quasi 9.20 vai a 9.15. Ho capito. Oh, comunque, vabbè, è per il segnale, però questo è molto più bello. Questo è un po' più piccolo, vabbè, io so che vado al colpo, visto che mi va bene questo, che adesso è acceso. Questo c'ha un problemino, si sente bru, c'è qualche condensatore in perdita secondo me, e ti dà qualche residuo di alternata. È molto più bello che ti berri come baracchino, niente da dire, però quell'altro esce meglio, è pure più potente. Riccardo, Tony, come ti arriva a te Riccardino adesso? Foto scala. Riccardo? Sì, un attimo, scusate un attimo, stavo andando al colpo. Riccardo, guarda WhatsApp. WhatsApp? Sì, guarda, ti ho mandato un messaggio WhatsApp, guardalo. Un attimo, rispondimi. Ok, adesso guardo. Non mi sembra arrivato niente, non è arrivato. Sì, ma non dire niente in radio, rispondimi a WhatsApp e basta. Ah, sì, dai, te come ti arrivo? Cosa? Come ti arrivo io a te? 9:15, 9:20. Solo. A te ti arriva fortissimo invece Riccardino, Tony. Fondo scala. Tu arrivi quasi 9:20 da me e più o meno ce n'è Riccardo. Riccardo con l'altro baracchino arriva a 9:20 spaccato. A me 9:30 arriva. Quindi è il più forte che ti arriva Riccardo di tutti qua. Sì. Vabbè Ricca, è passato tutti, va. Adesso sei 2-1. Che te ne ha messo Riccardo, si può sapere? La nuova Mantova Turbo che si chiama la 827, che sostituisce la Mantova Turbo. È un'ottima antenna, sta funzionando bene, ha messo il cavo 213, l'ho fatto prendere tramite una persona, e ti è preso, c'è un baracchino che darà 4 watt massimo, e non ha il microfono amplificato, per cui quando metterà il microfono amplificato si farà sentire alla grande. Da parte mia il segnale più forte è tolti quelli di Luca, parliamo di segnali normali, è tolti quelli vicino, di tutti gli altri è chi arriva più forte è Riccardo qua. No, bene, bene. No, adesso ha cambiato apparato e è aumentato di nuovo. Poc'anzi ne ha provato un altro, cos'era? Non mi ricordo che è marca forse, ha perso due Santiago, ha perso. Sì, era il Tiberi, adesso dovrebbe usare il Colt Shadow, così Riccardo, ci sei? Nulla. Chi è arrivato qua? Luca ancora ci sei? Mi sto mangiando qualcosa, allora, voi avete mangiato, io non ho mangiato niente ancora. Mi sono uscito con questi microfoni, ma basta, ma domani non faccio più niente, boh. Ma gli occhi, mi bruciano gli occhi proprio. Una domanda senza sapere il nome, Luca, le tue idee, una persona che entra qua in frequenza o non c'entra niente? Sì, vabbè, può anche essere una persona che entra qua in frequenza, non lo so. Ripeto, io non voglio condannare nessuno, però a prescindere che non è una cosa giusta, là. Perché poi se viene scoperto fa tutte figure, fa figure di merda. Sì, sì, no, quello lì, no, era soltanto una curiosità, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Io sinceramente non avrei tempo per farlo, anche volendolo fare non avrei tempo, perché a quel punto entri e parli, se no forzate cose, no, cose più importanti. Purtroppo c'è gente, non capisco che divertimento ci sia, però come ha detto qualcuno, è inutile dare troppa importanza, se no facciamo il suo gioco. Ok, vai Tonino, riprenditi il mic. Ok, Ricca, l'hai superato Roberto, è di brutto, hai detto ok Caparoggi. Mi ha sovramodulato, mamma mia, hai detto quando da ciappo, Riccardo. Dai, non involontariamente avete preso il tuo. Ma ne frega, lo so, capisci, manca. Guarda, tu mi puoi dire tutto, te l'ho detto Tony, forse tu non mi conosci, a me non me ne ha fatti nulla la radio, se mi sovramodula, se mi mettono a portante, guarda, non me ne frega assolutamente niente. Io la radio la vedo un diversivo, come quando uno se ne va a giocare a carte al bar, che si mette a giocare a dama, così. Se poi non mi piace la mente, spengo e me ne vado da un'altra parte. E tale quale ti dico anch'io, un tempo sì, ero casista anch'io, lo dico, ma proprio rottura di balle con tutti. Oggi che oggi, ripeto, guarda, non entro ogni giorno, è raro che quando entro mi guardo la televisione, c'ho molto da fare qua in campagna, quindi se riesco a modulare va bene, se è importante, che se ne frega a me. A me non mi piace, il ricco e il povero, io sto bene così, spengo e buonanotte. Già lo so, ma poi a me non mi vedrai mai arrabbiato per la radio, perché io parlo sempre dal presupposto che ci sono, deve essere arrabbiato per un motivo valido, no? Per uno che magari ti dice sopra modula, ti dice quello, un argomento che magari non vai d'accordo, non me ne affutti nuda, perché molte volte qua capita che qualcuno devo fare la pace di io, più di una volta l'ho fatto, perché cacchio, se no non dico che arrivano alle mani, ma iniziano a dirsi qualcosa, poi non si parlano, non entra, quando c'è quello non entra, l'ho sentito più di una volta io, e tu ne saprai più di me, Tonino che sei più esperto di me, è più anziano in frequenza. E poi ho avuto un piccolo battimecco con Eugenio, lo dico pure, non c'ho problemi, capito? Non ho preso la lingua. Perché avevo ascolto e quando aveva detto che non si dice, due o tre poi l'ha detto così, vabbè, se l'hai detto così aveva salvezza, però non si dice, è nato fastidio, che lui al cane l'aveva troncato da un picco sulla schiena, però ho detto, in cabatte facciamo un magro un picco. Mi è venuto spontaneo perché anch'io ho dei cani, cioè ma stiamo scherzando, è fermato molto a fastidio. Poi dice, l'ha detto così, tanto fastidio, ma non so cosa ci dico. E poi è finita lì, capito? Sì, no, è finita lì, però non era riferito a te, comunque era riferito ad altre situazioni di persone che poi non entrano perché c'è quella persona lì, infatti dico ma che cacchio ce ne frega, entra e parla direttamente, ma se c'è quello lì vai e lascia perdere, non è che tu stai parlando adesso, io e te stiamo parlando, entra quello lì, dice no no ciao correttivo, me ne vado perché è entrato un altro. Io ma ho visto anche queste cose, ho sentito anche queste cose, infatti dico buh buh, peggio dei bambini, cioè che scusate, non c'entra niente, perché se io parlo con te rompe. E c'è uno che c'è in ruota che a me mi dà fastidio, vabbè, non c'è nessuno che mi dà fastidio, che non lo frega niente, ma sono ipotesi, io continuo a produrare con te, mica devo fare con il T, sa che è tratto T, sa che è sempre un non lo frega a me. Non so, però purtroppo è capitato, dai, ok, dai, cambiamo argomento, se non sembriamo noi troppi bravi e troppo intelligenti, gli altri troppo poco intelligenti, dai, avanti Riccardino. Ok, comunque dopo devo vedere qualcuno che mi sa riparare per la 220 questa cosa per lo stalker, che deve essere che è stato fermato. Ma fa andare a 12 volt, Riccardi, e fregatene, dai. Poi quando si trova qualcuno si fa, no? Se lo vuoi usare, usalo. Ti posso dire, Tiberi è molto bello, però questo che stai utilizzando adesso come modulazione e come segnale è migliore. Ho capito, no, ma prima ero a 12 volt, il problema è quello, è che non stavo sentendo. Diciamo non è fastidioso, ma si sente, dai, dovrebbe fare delle prove e cercare di capire da dove viene questo coso qua, se c'è qualche saldatura fredda, se c'è qualche componente in perdita o qualche massa che magari non è ben efficiente, ci possono essere tante cose, dai. Ok, già si troverà il problema, il modo di risolverlo il problema. Avanti qua, chi c'è rimasto? Se c'è Luca, ci c'è ancora? Si sente, non dico che si vede, però si sente. Ok, vai Tony, riprenditi. Ok, ma stai usando un trasformatore 12 volt che si è preso in alternato. Allora ti spiego, lui ha una bellissima stazione base, un Tiberi americano, non mi ricordo come si chiama, Walker, boh, non me la metto, funziona a 220, però c'è anche la possibilità di andare a 12 volt. Quando va a 220, ultimamente si sente una specie di però non è una cosa continua, sembra una cosa a tratti, bisogna verificare di cosa si tratta, può essere anche male del microfono, ci abbia qualche problemino, non lo so, la capsula o qualcosa, è tanto da verificare. Però adesso c'è un altro baracchino nuovo nel senso appena arrivato, un Colt Shadow che esce alla grande, magari non sarà bello come quello, però esce perfettamente pulito. Sappiamo benissimo che anche a stazione base c'è sempre un trasformatore che funziona sempre 12 volt all'interno. È come il televisore non esiste, è un televisore che funziona a 220 volt, perché se uscirebbe un televisore che funziona a 220 volt costerebbe minimo 50.000 euro, perché è possibile. Quindi funziona tutto quanto con 12 volt, perché c'è un trasformatore dentro, e così presumo anche per il baracchino. Poi se giustamente se gli fa un po' di alternata, ma provare al limite a mettere un condensatore a carta, non lo so. Sì, ma questo c'è il vantaggio che c'è anche la possibilità di andare a 12 volt, oltre c'è l'uscita a 12, per cui non c'è problema, l'ha utilizzato tante volte e per cui non va più che bene. Magari ti dà un po' meno potenza rispetto al coso, a questo nuovo che c'ha, però io dico, se una radio va bene, tieniti quella e poi l'altra, quando c'è tempo si sistema. Riccardi, ci sei ancora? Ci sono sempre, sono per questo. E ieri notte anche l'hai finito Riccardo? Ecco. Collegamento. Break. Registrato il break. Ciao Fabrizio da questa parte. Fabrizio, ciao, ben sentito. Avanti Tonino e poi Riccardo. Ciao Fabrizio, ben entrato, avanti Riccardo. Ciao a tutti, ben sentite a tutti. Ho visto che Riccardino ha un problema con una radio. Sì, comunque ciao Fabrizio, con lo stolto. Beh, bella radio, bella radio. Che problema hai di alternata? Quella va a 220 quella radio? Ha un trasformatore, va a 12 e a 220. E a 12 non te ne dà problemi, scommetto. E a 12 così dice Roberto che c'è sempre, però è più bassa. Sicuramente un problema di alimentazione, bisogna rifare un po' di condensatori, sostituire. Se me la dai te la controllo. Glielo dico a babbo. Diglielo a tuo padre. Che se me la dai gli do uno sguardino e vediamo un po', sicuramente la parte di alimentazione si è alternata lì e probabilmente magari c'è anche qualche cosa di iodo che magari rientra al corrente, non lo so, da controllare, dai. Però penso che sia un difetto abbastanza risolvibile. Sì, sicuramente è qualche condensatore in perdita, qualche saldatura fredda, già lo sai meglio di noi sicuramente. Fabri, cosa stai usando? Il K? Sì, perché quei problemi, aspetta che vengo qua, problemi ci sono? No, anzi, è esattamente il contrario, si sente la qualità e la modulazione. Come ti arriva Riccardino a te da quelle zone, Fabri? Benissimo, 9.20 adesso. Sì, abbiamo lo stesso segnale, 9.20, dai. Figurati, non ha ancora il microfono, l'altro giorno c'aveva con l'antenna piccola, diciamo, e c'aveva il microfono amplificato, arrivava una meraviglia di radio. Figurati adesso quando arriverà l'altro microfono che sta aspettando e vediamo un po', diventa uno dei top stazioni della lo so, sta arrivando bene, la radio è un po' sempre così, però niente. Guarda che quella radio, devo capire un po' dove trovare una fase digitale, ma c'è qualcosa che mi sfugge. Che dicendo, quella radio è un problema di corrente, praticamente c'è la corrente che non è livellata, è un problema proprio della parte dopo del ponte di Dio, di lì sicuramente non viene livellata quella corrente, perché c'è dei condensatori che ormai sono vecchi e sono andati in perdita. Però ti ripeto Riccardi, parlane con tuo padre, al limite un giorno rientrando da lavoro, così ti conosco anche tuo padre. Passo, me la dai, me la carico in macchina e te la metto a posto, poi qui già lo sanno, in frequenza è solo una persona seria. Ok, se mi fai questo favore, Allora, siccome io mi ha dato lui il Tanner Siderick e io ho convinto che fosse uguale, il circuitino uguale al Tanner più 3B, quello che ho io, però sono completamente diversi. Lì hanno tagliato dei fili, nel senso hanno fatto diretto con la capsula senza eliminando il circuito di preamplificazione. Io, Claudio mi ha dato lo schema, però era di un altro microfono, di un più 2, ed è diverso ancora da quello che avevo io. Se c'è 5 minuti di tempo, perché io l'avevo scaricato da internet, però era troppo piccolino, quasi quasi non si vedeva. Se gli vuoi dare uno sguardo, così lo mettiamo in condizione di lavorare a coso, a Riccardino. È tutto completo, se solo da capire dove vanno collegati i fili. Ci hanno scollegati i fili, secondo me, perché è partito il circuito di amplificazione, di preamplificazione, secondo me. Però gli posso dare uno sguardo senza impegno. C'è un sacco di roba dentro quel microfono, non è nelle MC60, l'MB più 5 come si chiama, o più 4, è completamente, c'è un po' di roba dentro, mentre in questi cavoli di microfoni trovo uno, due transistor, due resistenti e un diodo, non c'è altro, lì è un po' più complesso quel circuitino. Ecco. Sì, ma lo schiamaretti comunque già ce l'abbiamo, dai. Ok, avanti il break. Ma sì, ciao Fabrizio, ciao Roberto, ciao Riccardo, ciao a tutti. Allora, io ho un più 3B, si può assomigliare come circuito? Io sono disponibile a darvelo per vedere se è uguale, non lo so. Ma si vede, è totalmente diverso, ce l'ho anche io, l'ho aperto e confrontato, è tutta un'altra musica, un circuito completamente diverso, non fa. Però su internet sono riuscito a scaricarlo, però era troppo piccolino, quasi non si legge, lo devo ingrandire e poi, non lo so, devo guardare se riesco a cavarne piedi io, se no, se Fabrizio ce l'ha sempre, nel senso, le tecnologie, le capacità ce l'ha, la grande, se c'ha tempo di farlo, così quindi lo mettiamo a Riccardo di andare in stand by. No, vabbè, io pensavo che fosse preciso tutto il circuito e ve l'avrei dato tranquillamente per guardare dove erano collegati i fili, eccetera, eccetera. Va bene, ok, vai Fabri. Sì, un attimino, no, forse ero io che stavo facendo un battimento con l'altra antenna e stavo trasmettendo in digitale. Non eri tu. No, non è un problema. Prova a darlo, la verità, questo periodo, lo sai anche Tino, sto passando praticamente tutto il tempo libero da Walter, che stiamo facendo dei lavori abbastanza importanti sulle antenne, quindi sono incasinato, non è più sto lavorando, ero un po' scarico questa settimana, ma adesso riprendo un pochettino più pesantemente il lavoro, e ho anche roba mia da fare lì, quello lì da lavorare, cioè, però non è un problema, non è che molto, però per Riccardino mi fa piacere, se me lo metto sul banco e glielo faccio, cioè lo collego e lo controllo la radio, perché se è una roba più seria no, però a quanto ho capito sono un problema di alimentazione, quindi diciamo che so già più o meno dove intervenire, e sul microfono me lo dai, me lo metto qua, io non ho problemi. A determinate ore, adesso per esempio a quest'ora in genere è difficile mettermi qua, però mi metto, se non sto facendo niente, un colpo di mano glielo do, capito? Però roba importante da mettermi lì con l'impegno di dover aprire, chiudermi tutto, entrare, controllare, quello mi viene un po' più male, però robetta così mi fa piacere, dai. Sì, dai, così ti diamo un miglioramento, dai. Già abbiamo dato una mezza fregatura, l'hai saputo con le MBPC? Sì, l'ho saputo, però se vedi glielo porta nuovo adesso. Diciamo, però arrivare a Cagliari normalmente arriva il giorno dopo, cioè ci è passata una settimana da lunedì che gliel'ha portato. Speriamo che non sia una presa in giro, dai, è già una ditta seria, speriamo bene, dai. Perché sono curioso di sentirlo con una radio amplificata, visto che adesso il segnale è bello che è pieno, forte. Ok, c'è Tonino in stand by e avanti se vuol riprendere. Ciao Fabrizio. Poi ho trovato sottimante che io ci avevo ascolto, che sono bello sdraiato. Ciao Tonino, ben sentito anche a te. No, ma è seria, la gente è seria, la vita è che io dovrà, magari non è che arrivo ogni giorno la roba da Cagliari, capito? Quando arrivano i pacchi glielo mettono dentro, magari teoricamente sì, ma non è che fanno un viaggio solo per quello. Sì, quello sicuramente, ma altre volte si scambiano le cortesie. Ok, Riccardino, mi ha detto, non l'ho sentito, ieri notte hai fatto collegamento, mi ha detto che facevi le ore piccole, ti hai portato il divano e tutto. Sì, ho fatto ore piccole. Dico, hai fatto collegamento? Sì, così, l'allenamento, ieri non era molto di provocazione, alla fine, dopo quando chiudo, mi faccio un giro, guardo, no, sì, ho sentito la notte di Ah, hai dormito in garage tutta la notte? Sì. Cavolo. Ma ti hai portato il cane da guardia vicino? No, il passo quello è il cane da divano. No, l'altro, quello più grande. No, quelli mi faccio vedere il giorno, perché quelli sono molto così più o meno da guardia, sentono i muri, potrebbero uscire al cancello per andare a vedere i cigliari e scarichi e cose del genere. No, ho capito, ok. Avanti, Luca, ci sei ancora? Ma niente su comandi. Ancora? Quello devo mangiare, pure in butto, piano piano. Io mangio piano, non lo gusto mangiare. Catania in radio, mi spacchi i timpani. Ma c'era anche Franco, scusa Fra, ci sei ancora? Ciao Fabrizio. Ciao, ben sentito anche a te. Aspetta che c'è mio figlio che vuole salutare Riccardino, vai. Ciao. Parla bene, ciao no. Riccardino. Riccardi, mio figlio che ha più o meno l'età tua. Ok, ciao. Va bene. Fabrizio, volevo chiedere, comunque, va bene se te lo porto? Se te lo porto, questo salto fa babbo dopo. Sì, quando vuoi. Alza, quando parli con quel microfono, avvicina veramente la bocca al microfono, che se no sei incomprensibile. Sì, non c'è problema, guarda. Se tu c'hai il mio numero, io domani mattina dovrei essere da Walter, magari lo conosce tuo padre Walter, dovrei essere da Walter lì in campagna. Se vuoi magari dopo mi posso avvicinare, io ti avvicino a lui, intanto stiamo lavorando su delle antenne. Sì, lo posso perfetto, allora mi segnalo se avete voglia di farvi una passeggiata domani mattina, noi siamo lì che stiamo lavorando su delle antenne, capito? Mi fai uno squillo e dovremmo essere lì senza problemi, perché stiamo piazzando delle antenne. Ho capito, adesso faccio entrare anche mio figlio se ne ha voglia di usare la radio, no, aspetta che lo faccio entrare, dai, aspetta che vi saluta, aspetta, no, saluta tutti quanti, Luca, niente, va bene, però dici, dai, un saluto a tutti quanti, un saluto a tutti quanti, come ti chiami? Mi chiamo Luca, Iappa, ciao, dalle nominati, allora Fabri, ciao Luca, buonasera, ben entrato, dalle una radio, visto che è tanto, Fabri, a farlo entrare con un'altra radio. Quante ne vuole, ne puoi usare la radio, non ha problemi. Fabri, che è il nome brutto che gli hai messo? Che nome brutto che gli hai messo a tuo figlio? Il nome suo, il nome suo, la madre gliel'ha messo. Scherzando. Anche io mi chiamo così, da 45 anni a questa parte. Comunque, Riccardino, ha fatto colpo anche su mia figlia, è 2 anni più piccolina di te. E ha detto il padre di Riccardo che vuole entrare, anche la sorellina di Riccardo, forse è un po' troppo piccolina. No, mia figlia già, ogni tanto già saluta a tutti, no? Gli attacco l'eco, cavagava. Ma voi lo sapete che sono nato il giorno del mio compleanno, lo sapete voi, no? Giù, Luca, mi sei ammazzato. Cos'è, Luca? Ho detto che sono nato il giorno del mio compleanno, voi lo sapete. Vabbè, anche io, uguale a te. Ah, ok. Ma ogni 4 anni li fai gli anni, o normali, Luca? Ogni 6 mesi. Non sei nato il 29 di febbraio, no? Ogni 6 mesi li faccio gli anni, io. Ah, così. Ancora mangiando, stai? Ecco perché sono tutto pieno di acciacchi. Te li porti dopo gli anni. Riccardo, guarda che se vuoi seguire mia figlia, visto che tu mi hai chiesto l'amicizia, sai il mio cognome, e mia figlia si chiama Gaia con la Y, quella è mia figlia. Ok. Potete fidanzare su Instagram, eh? No, figlia, vabbè, già è quasi da ci può stare, là. Perché c'è gente che mette il figlio anche a 10 anni su Facebook. Riccardi, aspetta, chiediglielo tu. Che sport fa? Che sport fa? Chiedi a Riccardino. Chiediglielo tu. Ma tu manca gli sorizzo. Cosa? Riccardino ne fa molti di sport, è uno abbastanza, ci vuole coraggio. Tipo? Il parapendio, anche a 400 metri vola, mi ha detto. Vabbè, quelle sono altre passioni. Io volo, però basso. Poi fa il quad, c'hai il quad, un paio di quad, c'hai i cavalli, grande fantino, così dica. Iniziate, vabbè, ho preso da poco, ferma. Ah, pure schermitore, eh? Buono, buono. Quindi c'hai, ti sai difendere, dai. Vabbè, io ne faccio uno di sport, ma volo basso, eh. E che sport tu fai? Tu calcio, pallanuoto, cosa fai? Il volo dal divano, il divano. Te l'ha detto Riccardo, hai visto? Ah, così. Ma tu che giocavi a calcio, Tino? Sì, io giocavo a calcio, sono arrivato in eccellenza, poi ho avuto un incidente e mi sono dovuto ritirare. Ti ha mossicato il pallone. peccato, il pallone mi piace sempre però, Ma adesso, vabbè, adesso qualche torneo così di calcetto, ma giusto per divertimento, Sì, sto scherzando naturalmente. Ok, e quindi Fabri, è pronta la stazione per tuo figlio Luca, dai. Ciao Luca, ben sentito per la prima volta. Luca piccolo, non Luca del mondo. Grazie, Fabri, grazie. Cosa vuoi dire? Che? Di cosa devi dire? Ma cosa devo dire? Dai, questo all'inizio sono un po' tutti timidi, come siamo passati tutti, poi piano piano prenderà anche lui un po' più di cose, di tranquillità, e sarà anche lui il re della frequenza. Luca, tu quando non c'è babbo accendi la radio e parla, fregatene. Io manco so come si fa, ma non ci sono buona. Tu cosa fai? Accendi la radio di babbo e metti la portante, schiacci, sta a parlare così gli altri non parlano più. E attacca lineare pure. Sì, così poi mi consuma tutta la corrente. Vabbè, là, te la porti una busta da giù dove lavori tu e te la riporti su a casa. Per quello problemi non ce n'è. La porto un cavo direttamente e problemi non ce n'è. Sono proprio problemi di corrente da quel lato lì. Noi abbiamo qua. Ma c'è, scusa, Fabio, una stazione monitor ce l'avete voi? Sarebbe dedicata a voi. Una stazione? monitor, dico, giù come impianto, c'è una stazione, dico, per, tra di voi per parlare, dico, c'è la stazione base e poi quando vi spostate per parlare tra di voi, ce l'avete? No, prima con Enel avevamo proprio i punti radio, circa persona, avevamo una rete che era, aveva un valore impressionante, con la privatizzazione più niente, noi abbiamo, usiamo le PMR, ma giusto qualche 4,9 qualcosa, ma io ormai, e poi invece al parco hanno proprio una frequenza dedicata con un ponte radio per comunicare tra di loro quando fanno le navi, arrivano le navi con tutte con le scariche di carbone e tutta quella roba lì, allora lì hanno proprio il VHF, adesso non mi ricordo la frequenza, hanno delle radio Motorola che sono con lo shift, tutto quanto, fanno tutto da solo, non sanno nemmeno come funziona, loro schiacciano e parlano, abbiamo un ponte radio su quella lì paghiamo la concessione, sull'altra invece con frequenze libere che potrebbe essere punti le antenne, ascolti in PMR il canale 1, così in genere usano il canale 1 e il canale 3, vai, molla. Oh Fabri, dimmi. Ma tu per caso hai lavorato in Salamanovra lì in quella zona lì? Sì, io lavoro proprio lì, faccio quel tipo di lavoro. Ma lo sai che io lì da voi ci ho lavorato 3 anni fisso, io caricavo le ceneri. Allora, vabbè, ma non però in quel lì ci lavorano gli altri colleghi. Io lavoro proprio nell'isola produttiva, diciamo, isola produttiva, nella parte proprio produttiva dell'impianto. Quello invece l'approvvigionamento lo fanno i colleghi del parco. Quelli fanno, quelli che trovi alla Pesa, nell'ufficettini lì, in sala manovra, i controlli, gli operatori, quelli sono tutta la parte che probabilmente tu conoscevi, quella roba lì, mentre l'altra è proprio la centrale dove, che divide in 3 parti, dove c'è proprio la sala di controllo con l'isola produttiva, la parte dove siamo noi nel Desox, che facciamo tutta una parte di impianto molto vasta che gestiamo, e poi c'è la parte delle PCC che fa tutta la refro, c'è quella roba lì, eccetera eccetera, divisa in varie parti l'impianto, che comunque tutti quanti siamo comunicati, perché ogni parte, quando io per esempio mi devo fare determinate manovre, devo chiamare il parco perché mi devono mettere in movimento dei macchinari, e quindi una parte è mia, una parte è loro, quindi devi essere sempre in comunicazione. Però tu conoscevi quelli del parco? Allora io conoscevo tutti quelli della sala manovra, perché chiedevo sempre con gli irrigatori a mandarmi l'acqua sulle ceneri per la polvere, in più noi facevamo anche il carico dei bunker del carbone, capito? Facevamo i turni la notte, scaricavamo le navi Golden 9, eccetera eccetera, e poi vabbè avevo anche un ex cognato lì che lavorava sicuramente, comunque credo che abbia qualche grado che comanda lui, si chiama Renato, non ti dico il cognome. Sì, è un mio collega, è quello di cui è un mio collega. Vabbè, Renato c'è un paio, un mio collega, beh, abbiamo parlato anche ieri, l'altro giorno insieme, è quello di cui io, però lui è da lì all'isola produttiva proprio, mentre tu parli della sala controllo carbone, però c'è la sala controllo termica che è quella più importante. Sì, sì, allora noi, scusate il ping pong, allora noi facevamo lo scarico delle navi, cioè spingevamo il carbone con il D9, le pale, eccetera, eccetera, e in più, vabbè adesso non so, lo faranno con le cisterne, la cenere a secco, però prima c'erano tutti i camion che portavano le ceneri in questo piazzale e le accumulavano lì, e noi facevamo proprio le navi delle ceneri, capito? Caricavamo proprio con gli scavatori, caricavamo sui camion e li portavano lì al porto di Porto Torres. Quindi ho sempre in contatto con i PMR, con questi qua, per mandarmi l'acqua, eccetera eccetera, e in più facevamo anche le navi del gesso, e oltretutto io ho fatto anche tutti gli scavi del turbogas. Ho capito. Guarda, quando c'era il turbogas può essere che parte dei lavori li avevo seguiti io, perché in quel periodo ho fatto 14 anni di manutenzione io, quindi seguivamo i lavori e una parte di quelli li abbiamo seguiti noi. Poi sono passato a fare esercizi in turno con il rotore le scatole di seguire le ditte. Adesso sono andato la mia squadra, perché la mia squadra è pure le ditte. Adesso sono andato in Martini, che è un lavoro completamente diverso. Economicamente che cosa sta meglio, si lavora a orari diversi, ho molto più tempo libero, quindi ho fatto una scelta di vita. Va bene, quello che non proprio un bel balle all'ingresso dello sceriffo, credo che ormai sia andato in pensione, là. Perché sei andato in pensione? Cioè i sceriffi ce n'è più duro, ogni tanto, ma facevano gli sceriffi con le ditte, giustamente, ma uno gli viene male, ne vedeva molto male, anzi, un po' sugli attenti ci devono mettere. Va bene, avanti Robert, scusa il ping pong. No, stavo ascoltando con interesse. Dì, c'è sempre Gianni Ara con te, non è tua collega Fabio? Sì, mio collega, proprio lui è proprio mio collega Gianni Ara. Ci conosciamo bene, poi la moglie abitava qua di fronte a casa mia, e dice, ma Paolo Soletta lavora con voi, c'entra qualcosa con voi? E come no, Paolo Soletta è un collega, non credo che si viaggiava anche insieme, Paolo Soletta è proprio dipendente come sono io, una vita, solo che lui fa l'assistente lì in reparto, tutta la parte civile, sarai, del coso, è una vita lì. Che fa quel tipo di lavoro. No, Paolo, stesso ragazzo in gamba, tutti e due, sia Gianni che Paolo. Paolo è stato mio compagno di scuola per qualche anno, ai geometri, forse anche alle medie, mi sembra forse un anno alle medie, adesso mi ricordo. No, in gamba, un ragazzo, sono un po' che non lo sento, ogni tanto capitava in officina, ti dico ti avevo telefonato, cacchio, quando avevo letto mi è sceso un colpo, che era morto, ed era un altro Paolo Soletta, mi è sceso un colpo, ho detto, cavolo. Sì, no, l'ho sempre detto, ma con Paolo, oltre che sia un collega, c'è un rapporto d'amicizia. Ok, vediamo un pochettino che è rimasto, se c'è ancora Franco, se no possiamo girare per Tonino. Franco, ci sei? Nulla. Riccardino, ci sei? Ci sono. Ok, Tonino, ci sei? Franco, Rex, Luca, ci sei? Quindi siamo arrivati io, Massimiliano, Fabrizio e Riccardino. Ok, va, è preso il mic, Massimiliano, toccate avanti. Va, non c'è problema, già ne ho anche altri amici che lavorano lì dentro. Sì, diciamo che è un po', vabbè, noi come ditta esterna avevamo avuto un po' di problemi prima all'ingresso, prima si entrava per aprire la sbarra, impronta digitale, bim bum bam, no? E quindi ci ho fatto 3 anni fisso, proprio fisso, facevamo queste cavolo di navi di cenere, guarda, non ti dico niente, ogni 3 giorni pulizia dell'escavatore, vetri con l'aceto, perché quella cenere è micidiale. È micidiale, una cosa impressionante qua. Lo so perfettamente, noi mai c'è ancora peggio, adesso è un festetto contro il test per entrare, cacchio, sicurezza contro sicurezza, infatti quando molte volte prendo che vado in impianto, poi ti vedono le ditte come dicevano con la divisa delle e sono tutti quanti più paura, perché basta un minimo richiamo, e dicono tante volte quando li vedi che stanno, ti avvicini, dici scusate, detto, vi sembra modo, no scusi, no abbiamo visto, no è giusto per dirlo, e no, è una paura che gli fai un richiamo scritto perché li sbattono fuori immediatamente, senza nessun problema, con la sicurezza in questi ultimi 3-4 anni è diventata una cosa assurda, soprattutto un po' per tutti, devi stare attentissimo, capito? Poi immaginati quando gli esterni proprio devono girare in maniera tonda, mentre tu devi girare più tondo per dare l'esempio, però comunque sei un dipendente, se fa qualche cazzata te la rispero, comunque vorrebbe essere il collega stesso per farti richiamo, ma comunque si rispetta molto la sicurezza, è un macello, è veramente un macello. Ma guarda, prima ci avevano fatto un permesso, anche perché diciamo lì dalla sbarra andare nel piazzale delle ceneri, andare a piedi era lontano, quindi mi avevano dato la macchina dell'azienda, però i primi giorni non mi facevano entrare in macchina, poi mi hanno fatto il permesso e poi non sollevava la sbarra e poi mi hanno preso l'impronta digitale, e quindi per sollevare la sbarra dovevi mettere l'impronta digitale, a volte non sollevava la sbarra e quello ti chiamava, guarda, oh macello, va. e poi vabbè, alla fine ci siamo messi d'accordo, vabbè, una volta di conoscerlo poi alzavo la sbarra senza neanche... E quindi ci ho fatto lì dal 2003 fino al 2005, fisso sempre lì dentro tutti i giorni, ma mamma mia che brutto. Lo so, non è che secondo cosa si fa qui lì dentro, sì, sono dei lavori che sono, vanno fatti, no? Vanno fatti, lo so, infatti molte volte quando sono delle manutenzioni noi passiamo a controllare, a fare mica con qualche collega, gli guardiani, mamma mia, poveracci, li vedi, mamma mia, cazzo, guarda cosa stanno combinando qui, cioè, i lavori che sono, c'è da lavorare. Guarda, ti dico Fabri, la parte più brutta nostra lì dentro era quando arrivava la nave del carbone. Iniziavi la mattina alle 6, io finivo, facevo dalle 6 alle 11 di notte, arrivavo a casa che quando mi facevo la doccia ne avevo più dentro le mutande, dentro le calze che fuori, guarda, l'acqua nera, completamente, uno schifo completamente. Già lo so, era un lavoro lì, no, l'ha fatto, perché le navi vanno scaricate, quello... l'ha detto, lo scarico delle navi l'interno, puoi raschiare con i bulldozer dentro, lo fanno le ditte e l'ha fatto. Anche il carico dei bunker, non credo che per quanto ci sono quelle ruspe, hanno riaccondizionata, filtri, controfiltri, però alla fine comunque sei sempre in mezzo a quella polveraccia. No, la polvere entra, tranquillo al 100%, io ci avevo messo tutto lo scotch nelle guarnizioni da parte in fuori, però è talmente fino che entra da tutte le parti, no? E vabbè, anche quello è stato fatto il lavoro, va. Ma penso che comunque stiano ancora continuando a farlo così, o no? Sì, certe attività si fanno così, che poi l'anello debole sono sempre quelli delle ditte, perché comunque è sempre l'anello debole, purtroppo, perché non è che uno può dire no, così non va bene, se no ci blocchiamo, sì, va bene, ci sta, se non è un collega che blocca lo scarico, dice no, lì sta entrando fuori, non va bene così, e gli metto tre palme in faccia dentro, una volta che è iscritto devono risolvere il problema. Faccio un esempio, dopo, quando voi venivate con le macchine a scaricare sotto i due sili, proprio, diciamo, sotto i due sili, le ceneri, che venivano fatti tramite l'operatore, veniva nostro, quindi sembra che veniva lì, e noi lì al Desox, proprio per lavorare, abbiamo gli uffici sopra, sai quante volte sono sceso, bloccati i lavori, chiamati il responsabile, proprio bloccati, e arrivava anche il collega responsabile del ma capito, a me non fatto un cazzo, ti ho detto che così non si può, sta uscendo cenere, ma no, non me ne fotte niente, ho detto qua tu non scarica, adesso scrivo un'email e qui non scarica, e cioè non ti prendi la responsabilità che sta inquinando, sia ammazzando la gente che inquinando, a me non me ne frega niente, qua così non scarica, prendevo, facevo un'email, avvertivo, bloccavano lo scarico e un giorno, 10 giorni, quello che non c'era proprio, finché non mettevano a posto l'impianto per evitare fuoriuscita di cenere, e ho capito, tu lo fai, ma uno di una ditta non si permette a farlo, perché l'indomani è fuori, già anche il collega stesso che si vive i lavori, tanto ti rompeva le balle, cioè, ma non va bene, ma tu non puoi bloccare, tu non puoi bloccare, tu continua a scaricare così, sì, a vedere se ne hai voglia di scaricare così, tanto faccio subito un'email e ti prendi la responsabilità, poi lo spieghi come mai sta inquinando l'ambiente, no, vai allora, blocca tutto, lo devo bloccare io, capito? Però quando sei dentro, all'interno, dall'esterno viene male. È proprio così, va. Sì, problemi per lo scarico ce n'erano sempre comunque, ce n'erano sempre, a volte ci fermavano per ore e ore, e tu quando arrivava la nave non vedevi l'ora di scaricarla proprio per togliertela fuori da mezzo piedi. E vabbè, purtroppo. Avanti, Roberto, riprendi. E Fabri, dove l'avete smaltito il camino, quello che avete demolito? Non lo so, la verità non so dove hanno smaltito tutto, perché le commission che facevano il lavoro erano gli ex colleghi proprio che lavoravano lì, che hanno seguito quegli appalti, proprio quelli che facevano, hanno demolito, una parte sono venuti a lavorare con noi, quasi tutti, una piccola parte invece hanno seguito proprio i lavori di demolizione, non lo so dove l'hanno smaltita, però amianto non c'è. Era, e quello siamo sicuri, abbiamo fatto tutto quanto, però poi è stata demolita, non c'è più niente lì, ma non lo so, la verità com'è stata, sicuramente è stata smaltita in maniera come doveva essere fatto, perché tutto gli posso dire alla nostra azienda, ma fanno le cose in maniera perfetta, nessuno gli può dire che inquinano, che fanno macello, tutta norma di legge, perché poi alla fine ognuno di noi come dipendente che fa un'attività è responsabile, nessuno si prende la responsabilità di andare a finire davanti a un giudice per una stronzata, quindi ognuno fa un coso, e poi il primo è il capo centrale, che è l'unico dirigente che, siccome uno gli hanno già messo le manette e non aveva nemmeno colpa, l'hanno portato giù dall'aereo, immaginate un po', ha fatto una figuraccia, poveraccio, e poi non c'entrava niente, era tutta scena, e comunque là c'è un po' di paura, cosa, paura che fai, perché poi qualsiasi fesseria che tu fai, tu ne rispondi penalmente, ma lui ne risponde con te, capito? Ho capito, dimmi un'altra cosa adesso, scusate, il ping pong, mi hanno buttato giù quel tralicetto, cos'era? Una cosa di avvicinamento degli aerei, quella specie di antenna che c'era andando verso la spiaggetta di Fiume San. No, quella non era una, quella è la torre, una torre Eiffel, era quella, era una torre altissima, cioè non so quanto era alta, forse superava i 120-130 metri, non me lo ricordo, quella era la torre meteo, dove c'erano gli strumenti in punta per monitorare la qualità dell'aria, poi tutta roba fatta quando era Enel, dai. All'ultima domanda, quei generatori, quello Fiat che è buttato in terra, quello lì l'hanno tolto perché ormai è superato, ma uno se lo vuole acquistare, non dico io, ma uno che lo vorrebbe acquistare, cosa deve fare? No, quelli sono lì appoggiati come bellezza, quanto è, però non dipendono più da noi quelli, capito? Quello non è più roba nostra. Ah, no, non c'è tanto niente, quello era Fiat, un vecchio generatore, forse il primo che avevano installato di lì negli anni 80, ormai adesso sono superati da questi, e questa è nuova generazione. Ok, facciamo riprendere Riccardino che era in parcheggio da un po', avanti, sempre che non sei andato a mangiare, avanti Riccardino. No, sono qui, praticamente oggi hanno scritto, lo so, io quindi sono, come ho detto, bianco, sono andato a prendermi lo a mangiare e sto mangiando qui, e sono... Ma Riccardi, ti devi organizzare per l'estate, ti porti un bel frigorifero, ti metti dell'acqua fresca, aranciata, Coca-Cola, un bel ventilatore se non hai l'aria condizionata, così, perché ha detto qualcosa, almeno dalle fotografie penso ci sia un po' di calduccio d'estate, o sbaglio? No, ho le ventole per quando attacco il valvolare, ho le ventole. Pronte, attaccate al muro, le accendo, invece di metterle sul valvolare, le punto verso di me. Ok, quindi si organizza. Poi acqua fresca e stai andando alla grande. Ok, dai, sono contento che piano piano riprendi il coso. L'arte del coso, del CB che poi diventerà il radioamatore se avrai voglia di continuare. Ok, Fabri, prendi il mic. Sì, riprendi io. Riccardo, se ti ho detto domani, di che sabato, digli alla tuo padre. Ti ha detto Fabrizio, dici che sei da Walter, vieni, così ti conosciamo. A te conosciamo tuo padre, siccome lui conosce Walter, c'ha il mio numero di telefono. Domani mattina mi fai uno squillo e dico che sono lì, però al 99% dovrei essere lì, capito? E ti avvicini con tuo padre, quindi puoi rivelare la radio, mi metti in macchina e poi te la controllo io. E magari vedo anche il microfono che c'ha Roberto e magari te lo collego per quella radio, se riesco a farlo andare, e e così ti faccio vedere una stazione radio che non ti puoi nemmeno immaginare le radio che ci sono dentro. Mollo 10 minuti, un quarto d'ora del lavoro che stiamo facendo, ti porto in stazione e ti faccio vedere sia le antenne che ha, sia l'antenna che sto installando in questi giorni, un'antenna che ci vogliono giornate di lavoro per installarla, per capire, un'antenna enorme. Su torri da 24 metri vanno queste antenne, e poi ti faccio vedere una stazione radio che è piena di baracchini, datati, microfoni, radio, che non hai mai visto così tanto insieme. Ok, glielo dico di organizzarci domani che andiamo assieme, perché già la prima volta è andato e ha conosciuto Roberto da solo e non con me. No, ma tu glielo dici, siccome Walter lo conosce, digli di venire da Walter, così ci salutiamo, e soprattutto così dici che devi venire anche tu, perché vuoi vedere un museo, perché c'è un sacco di radio, dici voglio vedere le radio che c'ha questo signore qua, e trovi a me, scenderò dalla Toscana che siamo piazzato questa antenna, ci conosci e ti faccio vedere tutte le radio, capito? No, vieni, infatti vieni, oltre tuo padre, vieni anche tu così vedi tutte le radio, perché magari tuo padre le conosce già quella stazione, perché se conosce Walter magari è già venuto lì al bunker di dove abita lui, capito? Quindi se chiama domani e avvicinatevi. Come ho detto già, dopo vado e dico che vogliamo andare per vedere, ma me l'aveva già detto che ha un sacco di roba e in confronto ad altri figli mi metto le mani in testa. Tra l'altro vieni che domani è, siccome domani è sabato, tu vieni domani con tuo padre, così tanto se conosce Walter, tuo padre Walter lo conosce, così ci conosciamo anche noi, e ti faccio vedere una stazione enorme, una bella stazione, ti faccio veramente grande, cioè bella è una parola perché tutto casino c'è in quella stazione, perché radio da una parte, dall'altra, molto disordine c'è, però ci sono molte apparecchiature. E Carlo? Basta, prima di andare da lui, da Fabrizio e da Walter, passi in officina e ti riprendi di nuovo il microfono, così lo porti insieme alla radio a Fabrizio, a me mi trovi sino alle 10 domani mattina. Ok, va bene, poi passa a casa, ti prendi il caffè e poi andate da Walter, bene, va. E Carlo è diventato la mascotte del canale 10, della banda cittadina. Sì, adesso lo faccio conoscere mia figlia da Instagram, fino a ti innamorare. Beh signori, io adesso me ne vado, dai, faccio altre cose, ciao Massimiliano, ciao Riccardino, ciao Fabrizio, tutti gli eventuali amici qua in ascolto, io faccio QRT, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao, buon proseguo di corso, ciao ciao. Ciao Roberto, sì anche io adesso scendo a mangiare una cosettina, che mi hanno chiamato proprio in questo momento, ok? Ciao Fabrizio e ciao Riccardo e tutti i vari ascoltatori, ciao Roberto anche a te e ci sentiamo domani se coincido, riprendi Fabri, io faccio il corretti lo stesso, ciao. Ciao a tutti, buonanotte, ciao. Ciao a tutti, ciao Massimiliano, ciao Luca, ciao Roberto, ci sentiamo domani, vado, aspettate che prendo il fucile e vado a casa di propagazione. Brock? Chi è? Brock? Chi è? Sono io. Quindi tu ricordi, ogni volta ti do un numero diverso, eh? Vero, sei Franco. No, Fabio Marcel, buonasera a tutti. Sto cercando. Ciao, penso che tu sta fatto, sono entrato proprio nel momento in cui tu sta fatto. Stavo ascoltando per fare il break e niente, saluto ancora Roberto che ascolta e chi altro è andato via, per un secondo ho ascoltato, mi è sfuggito, così ho detto faccio anche il positivo da mangiare, però comunque saluti a tutti, anche agli ascoltoni. Ciao, abbiamo mangiato. Qualcuno che sta sempre ascoltando e non vuole entrare a questo come alla fine. Ma tu, tu che anche tu sei sempre in ascolto più o meno. No, io ero attaccato alla radio, ero fuori. Niente, ho finito di mangiare, ho acceso, però spesso sono capito ad ascoltare, anche perché mi porto il gattilino che è solo un ricevitore, perciò a volte li ascolto anche se non posso entrare. Ok, ho capito. Luca non ha fatto quel recinto, non ci sta ancora. Luca, ci sei? Non c'è più nessuno sui piedi. Scappate. Non è vero, Luca c'è. Luca, se mi ascolti, la parola. Ciao Fa, sì. Mi brucia un bel gli occhi, dai. Oggi ho fatto un po', diciamo, attaccato allo saldatore, poi con gli occhiali, quelli da vicino, là. Mi hanno crepato gli occhi, troppo male mi fanno, mi bruciano. Poi adesso mi sto rilassando, mi vuole un po' di TV. Scusate, anch'io faccio per chi, cerco con il fucile propagazione. Ascolti, ma c'è un posto per fare caccia di propagazione, dove te ne vai? Nei boschi? Sì, nei boschi. Prendo anche il fucile da caccia, se mi date un consiglio che fucile devo prendere. Ma secondo me è un banale Kalashnikov, insomma, già ne fai, un Kalashnikov. Oh, ah, guarda, volendo sarebbe comodo anche l'M60, è un po' adattato, però 59 colpi al minuto non sono pochi. Ok, va bene, ciao Fabio Master, ciao Luca e ci vediamo domani. Ciao Luca Pino, che peccato, sono appena entrato, va bene. Buon tutto, allora, buon curiosi e niente, a domani. Luca. Eia. Ciao Riccardo, buonanotte, a domani. Eia. E niente, da fa, mi sa che saluto pure io perché c'ho, guarda, mi bruciano gli occhi. Ho detto che mi guardano un po' di TV, ma con quello mi guardo perché non ce la faccio, mi bruciano un bel. Ma ti capisco, oggi sono venuto a capo un problema di baracchino, anche speravo ci fosse un pompone, se lo chiamo io, gli dico di entrare un attimino perché voglio sentirlo, ma un problema Luca, un giorno te lo racconto, cosa ho fatto per riuscire a trovare questo problema, guarda, una cosa assurda, cioè quelle cose capitano uno su un milione e non se ne cavava a piede, capito? Perciò anche io gli occhi lì, guardando, allargandomi le immagini col telefono, tipo vitroscopio, passaggiatore, sugli effetti di giugno e rimetti, mezzo baracchino ha fatto così, mezzo baracco. E perciò anche io c'è giusto di frigolo. Comunque, devi fare QRT o QRT? Qua, è un casino, è arrivata mattina, e ho fatto le connessioni a Gianni al 48 Plus, ma sono 6 fili, e prima ci ho provato io così, no, ho detto, poi non ci sono riuscito, poi ho trovato un tipo che mi ha mandato i colori dello spinotto, che ha fatto i collegamenti e si è a posto. Poi, siccome non avevo più voglia, per ammazzarmi ancora di più, stavo provando su un Mobicom, un microfono originale che ha smesso di funzionare, non esce di radio, non lo so perché, così di colpo, ho cambiato la capsula, tutto, ho rifatto le connessioni, nulla, non va. Ma aspetta, hai cambiato il microfono, hai provato con un altro microfono. Certo, gli ho adattato un altro amplificato, certo. E allora c'è il commutatore che ho parlato, si è cambiato la capsula e non va, c'è poco da fare, c'è il commutatore. Boh, non lo so, vabbè, non ho più voglia di sprecare il tempo lì. Stavo misurando una resistenza, mi sa che è bruciata, non dà segni di vita. Domani non ci sono. Domani sono dalla 25, rientro domenica. Lunedì sono entrato a fare la smonto con la resistenza, vediamo un po' se è quella interrotta. C'era da fare, pensa che io ho trovato una lenticchietta, un condensatore di quelli piccolissimi, tipo 150 nano, qualcosa del genere, una cosa piccola, in corto, ma la cosa più bella è che lui era nascosto tra due bobine, sai quelle bobine in aria libera che fanno, che mettono dalle parti del comparatore del rosmetro dentro il cornex, in mezzo a questi due pupini c'era un condensatore, cioè manco si vedeva, capito? Infatti corso, ho smontato tutto, ho provato tutti i transistor, tutte le spinte. Alla fine ho trovato questo qua in corso, un difetto di merda. Comunque, vabbè, lo volevo sentire per vedere se stavo uscendo bene, sentirlo io. Adesso lo chiamo un po' fuori, non faccio entrare, per provare, se magari chiudiamo tutto. Questo qua l'hai sistemato, sì? Sì, sì, l'effetto era che tutto a un tratto praticamente sono sceso di potenza, scaldava moltissimo i finali e la ricezione è abbassata. Io l'ho provato pure con te, quando stai parlando, stasera, stamattina, anche ieri, con due pareti uguali, con le antenne simili, tu mi arrivavi a Santiago tipo 8, qualcosa del genere, sull'apparecchio con quale sto parlando, e su quello mi arrivavi tipo Santiago 2, 3, capito? Non c'era verso di farlo ricevere. E come entravi in portante, iniziava a scaldare i finali che sembrava un tortafane. Ma pensa tu, una cazzo di etichetta, là si uscire in testa, Purtroppo, anche a me è successo un televisore. Cioè, proprio praticamente si è suddivisa, si è spaccata in due, ecco. Quella è piccolina, era da 1 k era.